Decima edizione di Condimenti, siamo con la sindaca di Castelmaggiore che innanzitutto saluto, grazie della disponibilità. Grazie a voi. Allora, inizia questa nuova edizione che impegnerà tutto il weekend. È un'edizione che in presentazione ha avuto uno spazio di importanza molto incisiva sul luogo, su Villa Salina. È una delle perle della nostra periferia, più che pianura, perché Castelmaggiore oramai è inglobata in un aspetto periferico, oltre che essere in un contesto importante. Io amo la pianura. Villa Salina, cosa si può considerare una perla da valorizzare ulteriormente, da portare ancora di più allo scoperto? Beh, direi proprio di sì. Diciamo che Villa Salina è una villa, come sappiamo, della regione Emilia-Romagna e noi l'abbiamo strappata dal suo piano delle alienazioni con la preziosa collaborazione dell'assessore Mezzetti, che ce l'ha cortesemente data in comodato, e noi siamo contenti perché è una perla in generale per il territorio di Castelmaggiore, rappresenta davvero un'eccellenza unica, e fare un'iniziativa in quella cornice significa davvero elevare all'ennesima potenza il potenziale di un'iniziativa che di per sé è bella e interessante, ma quando si svolge nella cornice di Villa Salina diventa immediatamente più affascinante. Quindi sì, è davvero una perla. È omnicomprensiva la rassegna, tra l'altro, a attenzione sociale, all'ecologia, allo spettacolo, all'intrattenimento, alla degustazione, alla cucina, insomma è anche molto impegnativa, se vogliamo, per organizzatrici, organizzatori. Insomma. Sì, assolutamente, però insomma abbiamo dei partner che davvero ci aiutano a realizzarla al meglio, e davvero c'è letteratura, ovviamente, perché Condimenti nasce come festival letterario, ma c'è anche la musica, ci sono concerti, c'è teatro e c'è sport, c'è cura del benessere personale, per cui davvero a 360 gradi, e attraverso queste espressioni artistiche si parla di tutto, si parla di relazioni, si parla di tematiche di genere, si parla di ambiente, di ecologia, si parla anche di qualche cosa di più leggero, ma anche l'intrattenimento culturale fa parte, insomma, del percorso per il nostro benessere. Interessante il gemellaggio con la Toscana, così diversa dalle nostre tradizioni alimentari, ma così complementare, se vogliamo. Sì, assolutamente, diciamo che l'Italia è tutta una ricchezza sotto vari profili, anche quello enogastronomico. Ogni anno scegliamo una regione, quest'anno abbiamo scelto la Toscana, che con i vini e gli oli sarà presente, ma anche con gli street food e con qualche autore. Davvero una fonte di ricchezza per delle persone, degli amici, dei vicini di casa che hanno le loro peculiarità davvero interessanti da scoprire e riscoprire insieme. Grazie, buona giornata e buon festival. Grazie a voi, vi aspettiamo ovviamente.